Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Si chiude questa settimana, oggi 31 maggio, di Italia in controluce. Questa puntata l'abbiamo chiamata così, la memoria di Luca. Sì, perché aveva 13 anni Luca Tarantelli il 27 marzo del 1985, il giorno in cui un nucleo delle Brigate Rosse spegneva il sogno di riformismo di suo padre Ezio Tarantelli. 28 anni dopo Luca Tarantelli riannoda per la prima volta in un libro, che consiglio di acquistare, per Rizzoli, Il sogno che uccise mio padre, storia di Ezio Tarantelli che voleva lavoro per tutti. La storia sociale degli anni Ottanta, dunque, attraverso le idee di Ezio Tarantelli, perché quelle idee sono ancora molto attuali. Il lavoro, prima di tutto, ma anche la giustizia sociale e le leggi realizzate con il consenso delle parti sociali, cioè con il consenso di tutti. Dunque Luca Tarantelli, che saluto, buongiorno Tarantelli, buongiorno, è ospite oggi di Italia in controluce per fare memoria, non per fare memoria del passato, ma una memoria viva, una memoria di oggi, perché come dicevo le idee di tuo padre restano ancora la base della mancata riforma del lavoro. Allora io chiedo innanzitutto ai nostri ascoltatori se il lavoro per tutti era il sogno di Ezio Tarantelli, perché secondo voi non si è avverato questo sogno, perché oggi, passati molti anni dalla morte di Tarantelli, siamo costretti a dire che quel sogno non è stato realizzato. E chiedo anche ai nostri ascoltatori al 349-238-6666, visto che parliamo anche di una storia di terrorismo, se esiste il pericolo che il terrorismo, in una situazione esplosiva come quella di oggi sul piano sociale, possa tornare a colpire. 349-238-6666. Tarantelli, dunque, questo non è un libro sul terrorismo, non è il figlio che racconta di terrorismo, ma è il figlio che cerca di riannodare le fila di una storia che ha a che fare con la storia italiana, la storia di tuo padre, la storia cioè di un riformismo. Ecco, ma chiedo anche a te come mai, me lo spieghi anche bene, questo sogno di tuo padre poi non si è realizzato, perché le storie che tu racconti sono ancora molto attuali, ma restano ancora irrisolte. Restano ancora irrisolte perché i nodi strutturali che mio padre aveva già individuato nel corso dei suoi studi, della sua attività scientifica, restano incredibilmente gli stessi anche a 30 anni di distanza. Leggendo molti dei suoi articoli si rimane colpiti da quanto sembra che siano stati scritti oggi. Diciamo, mio padre aveva fatto un'analisi, era uno studioso a tutto tondo, aveva fatto un'analisi su quella che era l'evoluzione della storia sociale e politica del paese, e da economista aveva cercato di proporre delle sue soluzioni. Era una persona che si era proiettata sul dibattito pubblico, era un intellettuale libero e indipendente che era, diciamo, non ragionava secondo schemi ideologici, ma cercava di confrontarsi, cercava il dialogo, cercava la soluzione dei problemi confrontandosi con tutti, e cosa che in Italia purtroppo era una rarità, perché assistiamo, come ho detto anche nel libro, spesso a una ritualizzazione del conflitto in cui ciascuna parte politica svolge una sua funzione precisa in una sorta di dramma, ma al cui fine non è quello certamente di cambiare le cose e di far evolvere la società e il paese in un senso più giusto, più democratico, più inclusivo. Ecco Luca, un ascoltatore, Ugo da Bolzano, dice che è difficile pretendere contemporaneamente il lavoro per tutti e l'applicazione del principio del merito. Cosa dice? Beh, diciamo, dipende l'applicazione del principio del merito. Secondo me è tutta una questione di come un paese riesce a gestire il rapporto tra l'educazione e la possibilità, diciamo, se attraverso l'inclusione dei lavoratori, perché nel processo produttivo i lavoratori oggi l'Italia è molto poco competitiva proprio nei settori dove c'è il più alto livello di educazione. Se noi pensiamo che esportiamo tantissimi universitari, mio padre stesso me lo diceva, lo sapete qual è la percentuale di immigrati a New York più numerosa dopo i portoricani? Beh, i laureati italiani. Quindi questo significa che noi siamo molto poco competitivi da questo punto di vista, e questo però significa anche che le persone che hanno, secondo me, creatività e immaginazione sono anche delle persone che riescono a immaginare delle forme di organizzazione del lavoro nuove e che accrescono anche il prodotto interno lordo, che con l'innovazione tecnologica si accresce il prodotto interno lordo, e quindi non è detto che ci sia una relazione automatica tra il merito e la diminuzione e l'aumento della disoccupazione. Allora, stanno arrivando moltissimi sms, 349-238-6666, c'è quella che avevo anche scritto in passato in molti libri su Massimo D'Antona e su Marco Biagi, questa striscia di sangue, ma questa striscia che da tuo padre, da Ezio Tarantelli, ritorna nel 1999 con l'omicidio di D'Antona e con quello di Biagi. Un ascoltatore dice: Tarantelli, D'Antona e Biagi tutti riformisti. Chi è stato, con la S di Stato maiuscola? C'è una c'è un'idea di fondo, quella da parte dei terroristi, di uccidere dei riformisti, è quello che scrivi anche nel tuo libro. Sì, nella stessa Barbara Balzerani aveva indicato chiaramente nel sindacato e nei riformisti già dall'inizio degli anni Ottanta questa linea, come la linea che avrebbero dovuto perseguire le nuove BR. Lo hanno fatto con i loro mezzi molto scarsi, in vero, e colpendo quando hanno potuto, perché chiaramente questi gruppi, come si insegna la psicanalisi, questi gruppi molto primitivi da un punto di vista psicologico, cercano la loro vittima, il simbolo, la vittima sacrificale, e l'hanno individuato in questo filone. Questo è probabilmente ciò che gli consente di esistere, cioè sono dei gruppi che esistono in quanto uccidono. Un altro ascoltatore ci dice che lo Stato avrebbe i mezzi per stoccare il terrorismo in soli 15 giorni, e forse non c'è stata la volontà in passato, oppure c'è stata una volontà un po' così a fasi alterne. Nel periodo in cui le BR uccidevano tuo padre, cioè il 1985, era anche il periodo in cui le BR si erano scisse in vari tronconi, e quelle che si affacciano negli anni Ottanta non sono certamente le BR della geometrica potenza, cioè dell'attacco al cuore dello Stato nei giorni di Moro. Ti chiedo una cosa che riguarda più l'aspetto personale, perché tu dici sostanzialmente che hai spiegato che dopo la morte di tuo padre hai voluto superare questo trauma, no? Sì. Per riaccostarti ad un padre che era stato rimosso soprattutto nella sua fisicità. Sì, per quanto mi riguarda, io ho vissuto quella giornata sono stato completamente travolto dagli eventi. Io ho saputo della morte di mio padre alle 4 del pomeriggio, quando l'attentato era avvenuto intorno alle 11, e non ho potuto vedere il suo cadavere. Ora sembra un discorso, ma non è un caso che tutte le civiltà organizzano delle forme di ritualizzazione del lutto, e al centro di queste forme di ritualizzazione c'è il mostrare il cadavere, perché mostrare il cadavere aiuta a fare in qualche modo i conti con la realtà, ad elaborare a sé, pur se all'inizio è molto doloroso, però col tempo aiuta a elaborare il lutto. Per me questa cosa non è stata possibile e io ho avuto una reazione tipica, cioè quella di dimenticare, di dire ormai è successo, cerchiamo di pensarci il meno possibile, andiamo avanti lo stesso. E però questa cosa è rimasta, come tutti i traumi, rimangono sottoterra come fantasmi che ci perseguitano. E poi ritorna. Io ringrazio Luca Tarantelli e consiglio a tutti questo libro, Il sogno che uccise mio padre, storia di Ezio Tarantelli che voleva lavoro per tutti. Ringrazio anche a tutti quelli che hanno scritto, che sono molti, come sempre al 349-238-6666. Ritorniamo lunedì come sempre alla stessa ora alle 13:30 in studio. Vi ha parlato Daniele Biacchessi.